Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Benvenuti amici radioascoltatori, siamo ancora una volta ai colori dell'anima da Radio Alma, siamo alla Maison de Culture de Saint-Gilles a Bruxelles, trasmettiamo Tiziana e Leandro, ciao a tutti ragazzi! La Stella per oggi non c'è, non ci ha potuto fare compagnia, ma siamo sicuri che ci sta ascoltando. Altra giornata un po' incerta qui a Bruxelles, tipico tempo belga, un po' piove, un po' c'è il sole, non si sa mai cosa aspettare. E vabbè, la prendiamo per come viene, come al solito. E ieri è stata la festa della mamma e allora ne approfittiamo per fare gli auguri a tutte le mamme. E facciamo gli auguri a Serena e a sua figlia Caterina. Ricordiamo la nostra amica Serena che ci accompagnava fino a qualche puntata fa con la sua rubrica di viaggi e ci faceva sognare portandoci nei posti più esotici o più particolari del mondo. Tanti auguri Serena! Auguri Serena, la prima festa della mamma, speriamo che tu l'abbia passata bene. E facciamo gli auguri anche a Nicole e Valentina, due nostri amici che proprio venerdì, subito prima della festa della mamma, hanno avuto due bellissime gemelline, Adele e Giorgia. Auguri! E passiamo subito all'argomento della giornata. E di cosa parliamo, Leandro? Parliamo di unità. Infatti questa serata sarà una serata speciale, cari radioascoltatori. Perché praticamente abbiamo intanto due ospiti specialissime e ci vogliamo ricollegare a un'altra puntata precedente quando abbiamo avuto come ospiti dei nostri cari amici Valerio ed Elisabeth, che salutiamo anche salutiamo ciao anche loro. Ciao ragazzi, siamo sicuri che ci ascoltate. Che ci hanno parlato della loro storia, della loro esperienza di coppia. Ci hanno parlato di come sono arrivati a Bruxelles, della loro vita a Bruxelles e soprattutto di come nella loro vita cercano di vivere l'unità con le altre persone, l'unione, la fratellanza, il dialogo con le altre persone che è importante, soprattutto a Bruxelles con le diverse comunità che convivono giorno per giorno è una cosa molto sentita, che si può vivere davvero nel concreto. È stata una bellissima discussione allora e se ricordate loro ci hanno detto che comunque il loro modo di vivere è incentrato anche su degli ideali che si fondano su un movimento di cui loro fanno parte, un movimento cristiano-cattolico che si chiama il Movimento dei Focolari. Quella volta non abbiamo avuto molto tempo, ci siamo incentrati più sulla loro storia e non abbiamo detto tantissimo su questo movimento. Questa volta quindi abbiamo pensato di approfondire un po' il discorso, parlare un po' di più di questo movimento, di chi l'ha fondato, dei concetti, degli ideali, dei principi su cui il movimento si fonda. Lo faremo tra pochissimo, come diceva Leandro, con due ospiti molto molto particolari. Due ospiti che hanno dedicato la vita a questo ideale e che fra poco presenteremo. Ma li presenteremo dopo una canzone del Gian Rosso con Francesco Guccini, che dice: c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di domani, c'è bisogno di futuro, c'è bisogno di ragazzi che sono al di là del muro. Ed ecco a voi Lavori in corso del Gian Rosso con Francesco Guccini. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su Colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Siamo ai Colori dell'anima, Tiziana e Leandro, che si apprestano a cominciare una nuova puntata. E avevo dimenticato, non appena abbiamo iniziato la trasmissione, di ricordare i nostri numeri e i nostri contatti, perché noi vogliamo, non vogliamo fare un monologo, vogliamo che voi interagiate con noi e ci, dice, e ci dite cosa pensate, e se siete d'accordo, se vi piace quello che stiamo dicendo, e se lo trovate, se avete qualcosa da aggiungere. E allora potete farlo telefonando allo 02 345 2656 da Bruxelles, più 32 se chiamate dall'estero, oppure potete scrivere sulla nostra pagina Facebook Rossella, Tiziana e Leandro on air, oppure potete mandare dei messaggi al numero di Leandro. 0486 94 11 29. Ok, benissimo. E ora addentriamoci subito nel cuore della puntata. Presentiamo i nostri ospiti, non vogliamo più far attendere i nostri ascoltatori. E abbiamo parlato di due ospiti speciali. Infatti abbiamo due persone che fanno parte del movimento. Si chiamano Hans e Christian. Hans viene dalle Fiandre, da Bruges, ha passato 32 anni della sua vita in Africa, pensate, ed è da poco rientrata in Europa. Christian invece è nata e cresciuta in Lussemburgo e si è trasferita poi a Bruxelles quando era già grande, diciamo. Ciao Hans, ciao Christian. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, iniziamo questo nostro argomento, ad affrontare questo nostro argomento. Parleremo piano piano di entrambe, ci racconterete anche un po' della vostra vita, un po' delle vostre esperienze personali. Ma innanzitutto vorrei chiedere che cos'è questo movimento dei focolari, da dove nasce, come si è diffuso. Hans, inizi tu, ci dici un po', ci spieghi in parole semplici, perché noi vogliamo spiegare le cose facili. Ci proviamo, eh? Allora, tutto è iniziato da Chiara Lubic, una ragazza giovane a quel tempo, nata a Trento, durante la seconda guerra mondiale, che distruggeva ogni cosa. Come diceva la canzone prima, anche Chiara aveva i propri sogni, i propri ideali, come le sue amiche, e c'era una che aspettava il proprio fidanzato che doveva tornare dalla guerra, un'altra voleva costruirsi una bella casa perché era affezionata a quella casa, e il caso di Chiara era che voleva terminare gli studi di filosofia, ma il fidanzato non tornò, la casa cadde sotto le bombe, Chiara non ha potuto concludere gli studi perché la guerra l'ha impedito. Sembrava veramente che tutto venisse meno. Allora una domanda veniva a Chiara e alle sue prime compagne: ma ci sarà un ideale che nessuna bomba può far crollare? E subito una luce: sì, un ideale c'è, e per questo possiamo veramente spendere la nostra vita. E questo ideale è Dio. Allora abbiamo deciso, dice Chiara, di far di Dio l'ideale della nostra vita. Ma Dio si è manifestato per quello che realmente è, amore. Perciò sembrava un paradosso, nell'odio della guerra, scoprire che Dio li amava. Amava Chiara, amava tutti. E perciò hanno fatto di lui l'ideale della loro vita. Però volevano essere coerenti a questi ideali, allora si sono detti: ma come facciamo? Non vogliamo fare la nostra volontà, ma quella di Dio, momento per momento. Però la guerra era spietata, poteva portarci via, dice Chiara, d'un momento all'altro. Allora hanno detto: ma ci sarà una volontà di Dio che piace particolarmente a lui? Una cosa che gli è veramente cara, per la quale vale la pena spendere la vita? Qualora sarebbero morti, e si potevano presentare a lui e che lui sarebbe stato contento della loro scelta. E hanno visto sì che c'era un comandamento che Gesù chiamava suo: amatevi a vicenda come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. dovevano correre ai rifugi, non avevano cose da portare, però una piccola cosa ma molto preziosa hanno portato con sé, il Vangelo. E queste parole del Vangelo sono state come un libretto di istruzione, come una guida. Entrarci, una guida. E hanno visto che la frase del Vangelo, che a loro sembrava la Magna Carta per il movimento, che stava per nascere, però loro non lo sapevano, era quel testamento di Gesù: Padre, che tutti siano uno. Chiara, in questo modo ha cominciato piano piano con le sue amiche a costruire un qualcosa di grande, un qualcosa che sicuramente non avrebbe mai immaginato sarebbe diventato così grande, e non avrebbe mai immaginato che con il suo ideale, questo ideale di unione, di dialogo, di amore fraterno, sarebbe arrivata in 182 nazioni. Che l'avrebbero seguita milioni di persone, anche aderenti ad altre religioni o addirittura senza alcun riferimento religioso specifico. E, niente, è magico, io penso, questo fatto che partendo da un sentimento cristiano, dalla lettura del Vangelo, dalla messa in pratica del Vangelo, poi sia riuscita a trasportare, a catturare, a coinvolgere così tante persone così diverse nel mondo. Christian, cosa ne pensi? Vuoi aggiungere qualcosa? So, ti vedo che vuoi intervenire. Ma io penso che è molto importante di vedere questo, di vivere, di costruire ponti insieme e allora di vivere il dialogo tra generazioni, dialogo tra diverse nazioni, poter vivere il dialogo anche con persone che non hanno sempre la stessa convinzione che te stesso, ma che la parola magica, come tu l'hai chiamato, è l'amore, quel rispetto, quel amarsi a vicenda. Voilà, è un po' questo. È vero, è vero. Leandro. Ed è una cosa che è una cosa molto concreta, mi sembra di capire, cioè non è solamente un concetto, però è qualcosa che si esprime nella vita di tutti i giorni, no? Tu, per esempio, Christian, sei del Lussemburgo, no? E questo ideale ti ha conquistato, insomma, è riuscito a raggiungere anche Lussemburgo. Sì, è giusto, perché, ma come tu dici, è molto concreto. Vuole dire, per esempio, se penso al mio lavoro, no? Allora in quel momento vuole dire che io devo amare come primo, o amare tutti, o amare l'altro come me. Ma chissà, ascoltiamo prima una canzone e così dopo vi racconto una o l'altra esperienza del mio lavoro. Leandro, la mandiamo una canzone? Dai, allora mandiamo una canzone degli U2 che si chiama Peace on Earth. Buon ascolto, ragazzi. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su Colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori, con i colori dell'anima, Tiziana e Leandro, e si parla di unità, si parla di fraternità, di temi importanti che però possono diventare semplici se poi si mettono nel concreto nella vita di tutti i giorni. Ecco, Cristiano, infatti volevamo proprio chiederti, come stavamo chiedendo prima, cosa ha catturato te del movimento, di questo ideale, come l'hai conosciuto? Allora, la mia storia ha cominciato molto semplice, ma per dirvi, ognuno può essere candidato all'unità, essere un costruttore di ponti dove si trova. Allora così per me ha cominciato quando io ho avuto 13 anni. Io ero una piccola scuola di suora. alloggiando anche durante la settimana. Siamo stati invitati un giorno dalle suore ad andare a vedere un film la sera fuori della scuola. Cosa che non succedeva mai. Ma no, ci ha tirata fuori, totalmente fuori da, sì, dall'ordinario. E poi immaginate, allora ci attirava era di andare fuori, no? Allora, il gruppo di giovani, che era molto più grande di me, mostrava un documentario sullo piano, piccola cittadella del movimento dei focolari vicino a Firenze. Sono rimasta perplessa perché vedevo persone giovani, famiglie, gruppi, e non essendo della stessa famiglia, si vedeva molto bene che erano di tutti i continenti. Quindi comunque era un qualcosa di un po' particolare, non era un film, non era, era un qualcosa di reale che però sembrava un po' surreale, diciamolo. Era una testimonianza reale di un qualcosa di strano che non si vede tutti i giorni. Persone di diversi continenti, diverse culture, diverse colore della pelle che parlano e sembrano quasi fratelli, fanno parte come della stessa famiglia. Era giustamente questo, quella io ho notato un'armonia che non sapeva spiegarmi, perché era diverso di quello che vedevo nel mio villaggio. Deve sapere che vengo di un villaggio che aveva in quel momento 120 abitanti, eh? Ma non c'era sempre la concordia dappertutto, e qui notava qualcosa, ma come vi ho detto ero molto giovane, non sapevo spiegarmi. Allora questi giovani che cosa hanno fatto, che sono venuti a presentarci questo film, ci hanno detto c'è una giornata a Bruxelles. Allora noi tutti studenti andiamo, no? Quindi ancora meglio, prima il documentario, poi la giornata a Bruxelles, vi hanno preso insomma, sì. La parte buona, meglio ancora di darvi dei dolci, ma, in quel momento. Ma si deve chiedere il permesso. Allora il giorno dopo ho chiamato la mamma, ho detto mamma, ma non sapeva dire niente di più che mamma è qualcosa di buono. Perché non sapevi descriverlo, no, giusto? Era tutto nuovo. Per te era anche andare a Bruxelles. Sì, e allora dovete sapere, vengo di questo piccolo villaggio, in quel momento aveva 13 anni, e io chiedo di partire da Lussemburgo per andare a Bruxelles, e la mia mamma ha detto di sì. Perché e così comincia questa avventura, ma l'avventura era già il giorno stesso, perché avevo lasciato le notizie alla scuola per sapere come arrivare. E allora dopo un mezz'ora la mia mamma diceva, sì questo pullman non arriva, in 5 minuti tu torni a casa. E mi sembra che qualcuno con qualcun altro, maiuscola, scusatemi l'italiano, ha veramente voluto che io vado a Bruxelles, perché pullman è arrivato e io sono partita a Bruxelles, e lì ho fatto un'esperienza che era impressionante, perché non avevo mai sentito delle persone che hanno parlato come loro di Gesù che era vicino, Gesù che era una persona che si poteva incontrare amando come lui ha amato le persone. Nel modo concreto, nelle piccole cose, perché alla fine era una ragazzina che era andata a Bruxelles e stava facendo come una vacanza, però hai percepito qualcosa di particolare, un sì. Messaggio che poi ti sei portata dentro. Ero così stupita di quello che ho vissuto che voleva conoscere di più, e così abbiamo cominciato un piccolo gruppetto nella nostra scuola, ma ho anche continuato a casa, e questo ha fatto un po' rivoluzione, perché dopo alcuni mesi siamo andate in una vacanza, mia sorella 2 anni di meno di me e lì abbiamo capito che cosa era questo che io avevo scoperto, era quell'amore che era possibile tra fratelli, ma anche tra, per esempio, una persona che ha studiato, l'altra che è operaio, che si vogliono bene e che lavorano insieme in rispetto, e ho scoperto la vita dei primi cristiani. E questo mi ha, ancora fino ad oggi, mi ispira, ma mi ha portato anche a diventare una persona libera, anche di venire stasera qui a parlarvi, perché sono un po' timida, ma per voi lo faccio. Grazie Cristiano. E quindi è stata una cosa che ti ha un po' contagiata, ti ha catturata sin da quando eri piccina, senza neanche capire. Ma giustamente quello che tu dici di mi ha preso, questo fuoco mi ha bruciato, ma non solo me. Come ti ho detto, sono andata con la sorella, siamo ritornate a casa, per 2 settimane avevamo una forza per amare senza notarlo, abbiamo fatto i piatti ogni giorno senza dire niente di quello che avevate fatto. Ecco. Senza farlo notare, senza dire alcuna parola? No, perché avevamo la nonna che abitava con noi, a un certo punto lei voleva sapere, ma che cosa avete vissuto in quella Mariupol? Noi non avevamo le parole, abbiamo detto, nonna è una cosa che non possiamo raccontarci, si vive. Dopo un anno la nonna è venuta anche con noi in quelle vacanze. Allora ha ragione che è contagioso. Ecco, e dopo anche la mamma ha voluto capire, e così via. Era contagioso, e come che... Ecco, allora forse in questo modo si capisce com'è che Chiara, come dicevo, è arrivata a 182 nozioni, perché se si propaga a questa velocità e con questi effetti, probabile che poi si arrivi a questi numeri. Leandro, mandiamo la prossima canzone. Canzone For One Another, tratta dal musical Streetlight del Gen Rosso. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci di nuovo qua, cari radioascoltatori, spero che mi sentiate meglio adesso. E praticamente abbiamo ascoltato una bellissima canzone le cui parole in italiano dicono: vivremo speranze, porteremo dolori, ameremo il cammino l'uno dell'altro. E al di là del passato, di ferite lontane, costruiremo il futuro l'uno dell'altro. E ci colpiva questa questo passaggio, insomma, e anche questo gruppo che si chiama Gen Rosso. Vogliamo parlare un po' di questo? Sì. Sì, il Gen Rosso è proprio un gruppo che è nato all'interno del movimento, è un gruppo di ragazzi di tutte le nazionalità. E la cosa più bella è questa, che il movimento parla dei suoi ideali, trasmette i suoi concetti fondamentali in tutti i modi, nella vita di tutti i giorni. E quindi questo vuol dire, la nostra vita di cosa è fatta? È fatta di giovani, è fatta di musica, è fatta di cose concrete della vita quotidiana di tutti i giorni. E allora il movimento, per tenersi al passo con i tempi, e per non parlare di cose... astratte, trasmette queste cose con un gruppo musicale. Per esempio, c'è un gruppo, questo gruppo musicale, il Gen Rosso, che è conosciuto in tutto il mondo. Molti non sanno neppure, conoscono le canzoni, ma non sanno neppure che sono state scritte e sono cantate da un movimento che fa parte, da un gruppo che fa parte di questo movimento. E hanno fatto un bellissimo musical, Streetlight, che ha girato tutto il mondo, è famosissimo e continua a girare tutto il mondo e ha affascinato veramente i giovani. E la cosa più bella è questa, che come diceva Christian, si riesce a percepire, a vivere questo messaggio, non si parla, non si descrive, si vive con i fatti, vero Hans? E infatti, scusa se interrompo Hans, abbiamo appena ricevuto il primo contatto della serata e ci scrive Valeria dalla bella Sicilia, che dice: ragazzi, vi seguo dalla Sicilia, complimenti per la trasmissione condotta con garbo e delicatezza. Grazie Valeria. L'ideale dell'unità anima la mia vita dall'infanzia, ma ancora oggi è una scelta quotidiana tra il vivere solo per sé, ma in fondo essere un po' infelice, oppure uscire fuori di sé e andare verso l'altro. Ultimamente è questo che per esempio ci sta spingendo, tanti di noi qui a Catania, a conoscere la comunità musulmana della città, anziché avere pregiudizi, e ora c'è un bel rapporto fraterno. Oppure ci sta spingendo ad accogliere rifugiati siriani che arrivano sulle nostre coste, e quest'estate faremo un'esperienza con giovani di tutta Italia e migranti minori non accompagnati di Siracusa, per realizzare insieme a loro, lavorando anche con i bambini di un quartiere disagiato, un'esperienza di fraternità e inclusione sociale. Lo stile dell'unità quindi costa la fatica di uscire da sé, ma paga in felicità. Ciao. Grazie Valeria, bellissima, bellissima esperienza, grazie sì. di avercela raccontata. Sì. E scriveteci, scriveteci, io qua non vedo niente scritto su Facebook. Tra l'altro notavo che abbiamo 98 mi piace, ma com'è? Vogliamo aggiungere altri 2 mi piace e arrivare a 100 prima della fine della puntata? Forza Rossella Virgola, Tiziana Leandro Neir. Parlate con noi, diteci cosa pensate, comunicate, mi raccomando, non è un monologo quello che vogliamo fare. Allora Hans, nel frattempo, mentre aspettiamo che i nostri radioascoltatori si sveglino un attimo, continuiamo il nostro discorso. Abbiamo parlato con Chrisanna, abbiamo capito un po' cos'è che l'ha catturata e cerchiamo ora invece con te di vedere come hai vissuto. Hai vissuto, dicevamo che tu sei stata in Africa per 32 anni. Quindi un'esperienza fortissima, in cui sicuramente il movimento e l'ideale sono state parte integrante. Come, raccontaci qualcosa, come certo, l'hai vissuta? È difficile dire qualcosa, no? In pochi minuti di 32 anni di esperienza. Però d'altra parte penso che potrei dire, quando sono andata lì, magari un po' avevo l'idea che avrei potuto dare qualcosa, anche sono infermiera pediatrica, ma anche con questo grande ideale in cuore. Invece penso che ho ricevuto di più di quelle che ho dato, e penso anche lo stesso ideale che ti porta a dialogare, ma ti fa anche vedere più le cose che uniscono di quelle che dividono. E penso che il continente africano mi ha fatto scoprire tanti valori che ormai anche si sono persi un po' nell'Occidente, e penso che prima di tutto, perché anche molto in unisono col nostro ideale d'unità, questa, quelle che chiamano vitalogia africana, che parla, che dice io sono perché noi siamo. Perciò il valore della solidarietà, il perdersi nell'insieme, la forza che viene dall'unità, ma anche la grandissima capacità di soffrire della gente, di sopportare, e l'energia di sempre ricominciare. Brucia la casa, domani si ricomincia a costruirla. Non lasciarsi mai abbattere. Non c'è fatalità. Questo paradossalmente, a differenza di quello che succede in Occidente, ecco, dove abbiamo tutto e diamo tutto per scontato, e ci però. Lamentiamo per piccole cose. E poi anche penso il riferirsi sempre a Dio, perché qui tutto si prende per scontato, ci si sveglia perché c'è l'orologio che ti sveglia, o si prende il treno, si sa già a che ora più o meno si arriva. Lì si mette tutto nelle mani di Dio. Mi ha messo anche molto più nella vicinanza di Dio. E poi l'amore per la vita, dove anche il fattore della morte fa parte della vita. Mi ero molto contenta di questa reazione che è arrivata dalla Sicilia, di questo dialogo con i musulmani. Sono stato 18 anni in Nigeria di queste 32 e devo dire, forse questo vivere insieme l'unità, che pian piano come una macchia d'olio si spargeva, e che non era un dialogo di parole o di teoria, ma di vita quotidiana, di aiutarci, ha fatto sì anche che tanta gente dei nostri fratelli musulmani ci hanno conosciuto e hanno fatto loro questa vita, naturalmente vivendo loro come musulmani, noi come quindi cristiani. Quindi mantenendo la loro identità. Certamente, e si cercava anche di non fare una mescolanza che è malsana poi. Abbiamo avuto gente che veramente era pronta a dare la vita, e lo ha dato anche alcuni o quasi, ma che vedeva che questo ideale era molto più grande di tutti i rischi che portavano. Io ho saputo l'inizio di questo movimento di Boko Haram, di cui si parla molto in l'hai questi conosciuto, giorni. Mi dicevi proprio quando stava nascendo. Quando stava nascendo, e quando anche sono successe alcune cose un po' sgradevoli, qualche mossa anche da parte del governo, per la quale adesso c'è anche tutta questa reazione. Ma io ho visto che la gente nostra, posso dire nostra, vuol dire musulmani e cristiani, non si sono mai scoraggiati. C'è stato momenti dove nel sud si ammazzava musulmani, ma i nostri erano lì andare controcorrente. Poi c'erano dei momenti dove nel nord si ammazzava i cristiani, ma anche lì i musulmani erano sempre lì a proteggere quindi c'era i loro questo, amici. Questo amore vicendevole, questa unione, questo amore scambievole, sì. Che non veniva dettato in quel caso dal Vangelo, ma veniva dal bisogno. Dal bisogno, certo. E poi era come rivedere la storia di Chiara ripetersi, perché lì era la Seconda Guerra Mondiale, in questo caso era un altro tipo di guerra, ma era sempre il tutto crollava. Infatti, è una cosa bella come Chiara l'ha scoperto tramite il Vangelo, ma è una realtà, un qualcosa che aiuta. Sì. Nella chiunque, non soltanto i cristiani, forse questa è la forza di questo movimento. Il fatto che Chiara, forse quella che definiva la regola d'oro, no? Che è presente anche in altre religioni, no? Fai agli altri quello che vuoi fatto ecco. A te, e non fare agli altri quello che non vorresti che facessero a te. Senti, Anze, sì. Poi mi raccontavi del fatto che nel 2014 si è fatto un bellissimo musical in Africa, il Festival Amani, in cui hanno investito tantissimo i giovani di quel posto. Infatti ormai sono anni che in Congo ci sono delle difficoltà, diciamo, intere generazioni non hanno conosciuto altro che la guerra. Perciò ribelli dappertutto, dolori, gente violentata, no? Le donne violentate, bambini soldati, eccetera. E anche le comunità del movimento che vivono in questa regione, è veramente eroico il modo nel quale vanno controcorrente. E si trovano lo stesso, provano a superare le difficoltà enormi. E era previsto per l'anno scorso un festival musicale dove volevano far convenire musicisti di tutti i paesi dei Grandi Laghi in guerra e con la vita, anche con la musica come hai detto, dire che un altro modo c'è, che la pace la vogliamo e che vogliamo fare di tutto, non vogliamo tacere. Però c'era tutta questa storia delle M23, questo gruppo di ribelli, e non si è potuto fare niente. Quest'anno, il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, si è potuto lanciare questo festival che ha visto insieme 25.000 giovani, persino il responsabile delle Nazioni Unite, che sono lì sempre presenti con tantissimi soldati, ha detto: ma noi non avevamo nessuna sicurezza, non c'era nessuno, eppure non è successo niente. E hanno fatto 3 giorni e il titolo era proprio Viviamo, lasciamoci vivere la pace, no? Grazie. Adesso, Anze, ti facciamo ascoltare proprio una delle canzoni che è stata la sigla di questo Festival Amani nel 2013. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci qua di nuovo, ragazzi, ed ecco un altro messaggio parte dei nostri radioascoltatori. Complimenti, che brave le vostre ospiti di questa settimana, sono contagiose pure loro, Valerio ed Elisabeth. Ciao Valerio ed Elisabeth, che ricordiamo sono stati quelli con cui abbiamo iniziato a parlare del Movimento dei Focolari, con cui abbiamo fatto quella trasmissione qualche mese fa. Allora, abbiamo sentito questa bellissima canzone. Christian, vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualcosa in particolare? Dacci il colore innanzitutto, perché siamo in chiusura. Purtroppo il tempo vola. Volevamo dire mille altre cose, ma rischiamo di non. Sicuramente non riusciremo a dirle a tutte. Abbiamo solo lanciato dei messaggi, delle schegge di luce, speriamo. Quindi intanto il colore. Io direi bianco. Il bianco. Bianco che è l'insieme di tutti i colori. È quello. Ah, ti ho capita. Brava. Oppure possiamo anche dire il colore dell'arcobaleno. È quello. Sì. Avevo il dubbio di dirti che voleva avere tutti i colori, ma mi sono detto raggruppa uno. Brava. Brava, mi piace. L'unità di tutti i colori. Io so che ci tenevi particolarmente a farci sentire, abbiamo parlato di unità, abbiamo parlato di come cerchiamo di metterla in pratica nella vita di tutti i giorni, però io so che tu ci tenevi particolarmente a farci sentire qual era. Sì, perché tutti noi possiamo chiederci, è possibile, tutti possono vivere per il dialogo, è possibile? Allora perché non ascoltiamo Chiara che ce lo dice? Bravissima. Leandro, siamo pronti, possiamo ascoltarlo? Ecco qua, Chiara Lubich. Cosa risponderesti a chi sostiene l'impossibilità di un dialogo vero ed autentico tra culture e religioni diverse? È senz'altro impossibile per chi non sa cosa significa amare. Perché per amare occorre essere pronti a morire per l'altro. Non sempre è chiesto di morire fisicamente, però almeno spiritualmente, e cioè spostare da noi tutti i nostri pensieri, i nostri affetti, tutti i nostri desideri, tutto quello che noi pensiamo di fare per ascoltare l'altro. Questo spostare è morire spiritualmente, per ascoltare bene l'altro, per entrare nell'altro, per capirlo, per amarlo, per servirlo, e viceversa l'altro com'è, l'altro com'è. Ecco come nasce il dialogo, nasce in questa maniera. Quindi, per chi sa amare, il dialogo è possibile. Per chi non sa amare, il dialogo è impossibile. Hai capito? Ed eccoci, l'abbiamo sentita. Tutto sembra così difficile, è un messaggio sicuramente molto forte, che è molto toccante all'inizio. Però riflettendoci un po', penso che si riesca a rendersi conto che alla fine è fatto di piccole cose e poi non siamo da solo. Questo è importante, che la nostra forza è farlo insieme, condividere insieme anche i nostri fallimenti e anche darci coraggio l'uno all'altro insieme. Sì, sicuramente. E qui siamo proprio in chiusura, Leandro, dobbiamo infatti noi vorremmo capire se qualcuno non volesse sentirsi solo e volesse anche conoscere cose di più di questa spiritualità, di questo movimento, come può fare per contattarvi? Ci sono dei riferimenti, dei contatti che possiamo scrivere sul nostro sito? Dateci, avete un sito internet, un modo per contattare, avete tanti eventi che vengono organizzati, come si fa a capire? Ma come prima cosa, se volete avere un po' di più informazioni, potete andare sul sito www.focolare.org. E poi possiamo dare anche il contatto della manifestival.com, dove c'è un po' il riferimento a quello di cui abbiamo parlato con Hans, e c'è anche il contatto di quella bella canzone che abbiamo ascoltato, sì. Anzi di entrambe, perché erano due le sigle, una l'abbiamo ascoltata, una purtroppo non c'era il tempo. E poi la metteremo alla fine. E poi c'è ancora il sito qui del Belgio, perché penso anche che, cari ascoltatori, ci siete anche qui in Belgio. Certo, allora, sicuramente. Allora, la stessa cosa, www.focolare.be. Ora scriveremo tutto sulla nostra pagina Facebook, così i nostri ascoltatori lo potranno ritrovare. Io volevo cogliere anche l'occasione per ricordare degli eventi che si terranno nella settimana.